Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Una serie di rumori sordi mi sveglia. Sembrano sul tetto. Sento una voce che grida, ma non capisco le parole. Mi alzo a sedere sul letto e vedo un'ombra passare davanti alla finestra, sullo spiovente del tetto. Inizio a spaventarmi. Mi chiamo Carla, vivo a Imola, ho 45 anni, insegno all'Università di Bologna. Vivevo in un appartamento a Johannesburg, al piano terra. Una notte sento dei rumori provenire dalla finestra e vedo muoversi qualcosa al bordo del letto. Preso dal panico, penso che probabilmente sia qualche delinquente entrato in camera. Accendo la luce e c'è il gatto del vicino sul letto che mi fissa, Lorenzo. Qualche mese fa, durante la notte, mi sveglio e apro gli occhi. Vedo nel buio una forte luce davanti agli occhi. La luce si spegne e poi si riaccende da un'altra parte. Si spegne e si riaccende più volte nella stanza fino a quando non accendo la luce del comodino e realizzo che una lucciola era entrata in camera mia. Paolo. Una decina di anni fa, sulle colline di Brusasco, svegliato da un forte boato, esco in pigiama. Temo sia esploso il bombolone del GPL, ma è tutto a posto. Incontro un vicino che mi conferma di aver udito anche lui il colpo. Ancora oggi non so cosa possa avere prodotto quel boato assordante. Giulio. Sono le 16:08, questa è Radio 24 in diretta da Milano. Io sono Matteo Caccia, al programma e voi siete qui. Ogni giorno una storia diversa, ogni giorno una persona diversa. E la storia di cui vi racconto oggi il senso, se c'è un senso questa storia, è la storia di Carla, che parla di una cosa che forse è successa a tutti. Se non vi è successa, un po' mi dispiace. Secondo me dovreste dispiacervi anche voi. Vi è capitato di notte, state dormendo o state per addormentarvi e venite svegliati da qualcosa che però non capite cos'è. È un rumore, è un suono, è una luce, un po' come i messaggi che vi ho letto un attimo fa e che sono stati scritti sul profilo Facebook del programma. Ecco, il più delle volte sono stupidaggini, no? Perché appunto si dice che la notte amplifica qualsiasi rumore e soprattutto qualsiasi demone e qualsiasi preoccupazione che abbiamo nella nostra testa. Delle volte invece non capiamo che cos'è e probabilmente non lo sapremo mai. E addirittura col tempo cominciamo a immaginare che sia semplicemente frutto tutto della nostra fantasia. Ecco, oggi parliamo di quella cosa lì. Se vi è capitato mai di esservi svegliati, di aver sentito dei rumori, di non aver ancora capito di cosa si tratta, oggi è la puntata per voi. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma che è Voi Siete Qui, o il profilo Twitter invece del programma che è Voi Siete Qui R24 se avete un profilo Twitter. C'è ad esempio una cosa che non so nemmeno perché la faccio, però so che mi spaventa moltissimo e non capisco qual è il suo significato. Ed è chiamare il mio nome nella notte sottovoce. La ripeto, sta roba è una cosa che non ha senso, però ho provato una volta da piccolo, non so nemmeno perché l'ho fatto. Da allora cerco di non farlo, però sapete quelle cose che vi fanno paura che avete voglia di fare? Ecco, esattamente così. Mi togli un attimo la base, poi proprio a zero. Ecco. Questa è una cosa che mi terrorizza. Se io sono nel mio letto, da solo, quando capita di essere da solo, e c'è silenzio, e c'è buio, e dico, Matteo, Matteo. Ecco, questa è una cosa che mi fa venire i brividi anche farla adesso in uno studio con tutto il cristallo intorno e vedere la redazione. Ma non c'entra con la puntata di oggi, volevo solo raccontare perché, in che modo mi faccio paura. Se c'è qualche psicologo all'ascolto e voglia di darmi una mano, 349-238-6666. Ma si parla soprattutto d'altro, come vi dicevo. La storia di Carla è una storia che appunto poi si rivela nella sua concretezza. Però parte in quel modo lì. Parte con un rumore, dei colpi e immediatamente la testa di Carla che pam, parte a pensare che cos'è sta roba, cosa può essere. Ma forse non ho sentito. Ah no, forse è vero. Ah no, c'è il rumore, eccolo, ritorna. È sempre più forte. Ecco, esattamente quella sensazione lì. Nella seconda parte voglio leggervi una cosa che mi è venuta in mente quando abbiamo con Tiziano e Margherita abbiamo letto questa puntata, che è un racconto che non leggevo dai tempi del liceo, sapete, antologia della letteratura, è un racconto di Edgar Allan Poe, che si chiama Il cuore rivelatore, e che parla di quella cosa, parla di un tizio che commette un crimine, insomma è molto più complicato, proprio alla Edgar Allan Poe, e a un certo punto sente un rumore che deriva dalle assi della stanza da letto dove ha nascosto qualcosa, e quel rumore è il rumore di un cuore. Questa ve la leggo più tardi però, dopo la borsa. Adesso è arrivato il momento di raccontarvi la storia di oggi, che è la storia di Carla, che parla di un tizio sul tetto. Valigetta coi campioni, a posto. Portatile, a posto. Copia di backup del file, a posto. Mi infilo il pigiamone giapponese e scivolo sotto il piumino. Camomilla di ordinanza sul comodino. Guardo il soffitto, il gioco delle travi di legno. Sembra di essere nella stiva di una nave o nel ventre di una balena. La finestra dell'abbaino è libera. Vedo le luci nel palazzo di fronte e la neve che cade fitta. La finestra sullo spiovente del tetto è coperta da un velo di neve e lascia passare solo una luminescenza diffusa. Il monolocale nella foresteria dell'Università di Amsterdam è molto confortevole. All'ultimo piano di un palazzo storico, in pieno centro. L'anno scorso ero sulla facciata, con due pareti di vetri a riquadri affacciate sui canali. Quest'anno invece sono in una Rustigkammer an den Binnenside. Secondo Google Translate è una camera tranquilla sul lato interno. Domani inizio il corso di metallografia, 28 ore in 4 giorni. È la giornata in cui affrontiamo i principi generali, almeno 5 ore di teoria e sarà lunga. Per alternare un po' di pratica con la teoria inizieremo a preparare i campioni da osservare al microscopio nei giorni successivi. Ho ripassato tutti i dettagli della lezione e adesso sprofondo nel sonno del giusto. Io insegno metallurgia e insegno anche scienza dei materiali, sempre finalizzato a saper scegliere i materiali per le applicazioni dove occorre progettare qualcosa. La metallografia è il modo di leggere la struttura dei metalli dopo averli preparati per guardarli al microscopio. Praticamente è come leggere un alfabeto: se si sa dove guardare, il metallo racconta la sua storia. Mi sveglia una serie di rumori sordi. Forse è un collega arrivato con un volo notturno che riarrangia i mobili in preda al jet lag. Mi riaddormento. I rumori continuano e mi risveglio. Colpi sordi, sembrano sul tetto. Una voce che grida, ma non capisco le parole. Ancora colpi, ancora grida. Mi alzo a sedere sul letto, vedo un'ombra passare davanti alla finestra sullo spiovente del tetto. Non ha senso. Siamo al terzo piano. Nevica. Passa di nuovo. Urla e colpisce lo spiovente. Chi è? Perché è là fuori, in mezzo alla neve che continua a cadere fitta? E allora inizio a spaventarmi. Telefono alla reception, ma non risponde nessuno. Mi alzo e vado verso la porta. Sono a metà strada quando sento una scarica di colpi alla porta, da fuori. Penso che il comando di terroristi sta per fare irruzione, però i terroristi di solito non bussano alla porta, no? Sono di fronte alla porta e la porta si apre, da fuori. Io cerco di richiuderla, ma spingono più forte di me e la porta si apre. In controluce c'è un omone, vestito di scuro. Per fortuna riconosco il logo della foresteria sul bavero della giacca. Mi spiega che vorrebbe usare la mia finestra per fare rientrare uno studente americano che, dopo aver approfittato degli intrattenimenti di Amsterdam, si è ritrovato sul tetto. Molto irrazionalmente ho avuto un sacco di paura e ho pensato che fosse un qualche tipo di attacco terroristico, cioè una cosa totalmente, non è neanche una delle mie paure nella vita di tutti i giorni, però con quei rumori e quel contesto lì non sono riuscita a pensare a niente di meglio, quindi non riuscivo a capire perché ce l'avessero con la mia stanza, fra l'altro. Il mio terrore si sgonfia come un palloncino. Apriamo la finestra, spostiamo la scrivania e un ragazzone biondo in jeans e camicia di cotone fradicia frana sul pavimento, trascinandosi dietro a valanga tutta la neve del tetto. L'omone lo aiuta a rialzarsi e gli dice con aria arcigna che deve scusarsi con me. Ma dallo sguardo vuoto si capisce che in questo momento lo studente americano non sa nemmeno dove si trova. Mi stringo nel pigiamone giapponese, guardo la pozzanghera di neve e dico che non importa, all's well that ends well. Ora però uscite, per favore, non è successo niente. Devo dormire, ma non dormo un granché. Quel tizio era sul tetto al terzo piano in camicia, fra la neve. Se fosse scivolato dallo spiovente. Il giorno dopo, al ritorno dal lavoro, trovo un'imbarazzatissima lettera di scuse del giovane americano sotto la porta. Trovo anche svariate offerte di bonus e colazioni gratuite della foresteria, di cui poi hanno approfittato molto volentieri i miei studenti. Tutto è bene quello che finisce bene. It all worked out this time, and everything's fine now. Please make up your mind. Please make up your mind. But if it's up to me, I'm not sure that I'll concede. Yeah, you better make up your mind before it's too late. Quest'estate ero in vacanza in Toscana. Insieme a me, la mia fidanzata, Ugo, il mio cane, e una coppia di amici con due bambini. Il posto era molto bello, si stava molto bene. In quei giorni stavo già scegliendo le storie per questa nuova stagione. Una sera ne racconto qualcuna per sapere cosa ne pensano i miei amici e leggo anche questa qua che vi ho appena letto, la storia di Carla. Poi chiacchieriamo un po' e andiamo a dormire. Anche quella sera, come tutte le sere, io ho un'abitudine che è quella di svegliarmi e di dare una controllata in giro. Non è paranoia, non so perché, lo faccio e basta. A Milano di solito ripeto sempre la stessa sequenza. Faccio due passi, sento il suono della medaglietta del cane che si avvicina, gli do uno schiaffetto sulla schiena, guardo fuori dalla finestra e torno a letto. E quella notte sul Monte Amiata faccio lo stesso. Faccio due passi, sento la medaglietta, accarezzo il cane e guardo dalla finestra. E a questo punto che mi si pone davanti un imprevisto, perché quella che a Milano è una finestra, qui è una porta finestra. E mi viene l'istinto di aprirla, di uscire, prendere una boccata d'aria notturna nel silenzio e nella natura. E sono fuori. Ugo esce, è a fianco a me. Il fresco dei mille metri mi risveglia appena. Me la sto proprio godendo quando il cane risponde al richiamo della foresta, evidentemente corre e sparisce di corsa nella notte. A quel punto lo seguo in mutande e maglietta, per fortuna è appena dietro l'angolo. È un cane fifone. Ma appena mi avvicino lui si mette a correre più giù. Si è svegliato, probabilmente vuole giocare. Ci impiego un bel po' per riuscire a convincerlo a tornare a casa. Al mio ritorno però sono tutti svegli, come fosse mattina inoltrata. Mi vengono incontro i due bambini. Cos'era? Mi chiedono. L'hai visto? Cos'era? Mi dice il più grande. Cerca di convincermi di avere sentito un rumore strano che proveniva da fuori, come di qualcuno che camminava di corsa. Allora prova a spiegargli che ero io, al massimo Ugo, che non c'era nessuno a parte noi, ma lui insiste con la convinzione che hanno i bambini. No, no, Teo, ti sbagli, c'era, l'ho sentito bene. I bambini mi hanno sentito rincorrere Ugo, chissà cosa sono andati a pensare, probabilmente che ci fosse qualcuno. Erano curiosi, però il buio gli faceva paura e quindi hanno svegliato tutti. Ecco com'è andata. A chiudere la conversazione però ci pensa Ada, la bambina più piccola. A lei il rumore non ha fatto paura, ci rimprovera e ci manda tutti a dormire. La mattina dopo, sempre Ada, vuole che facciamo colazione tutti assieme per raccontarci il rumore della notte. Racconta di un rumore intermittente, come di un lupo, dice, o un orso in cerca di cibo, specifica il fratello. Nel silenzio hanno sentito il respiro attraverso i vetri. Ada batte le unghie contro la tazza della colazione per imitare il rumore che sentiva contro il vetro. Io ascolto la storia di questa bambina di 3 anni e mezzo come la ascolterebbe un qualsiasi adulto assonnato, senza troppo impegno. Lei probabilmente allora se ne accorge, fa una pausa e poi dice: ecco, poi sei uscito con Ugo, hai fatto rumore e poi bon, dopo ho sentito solo te. E riprende a picchiettare le unghie contro la tazza per spaventare il fratello. I bambini prendono a litigare e si dimenticano di me. La giornata passa, ma come quando ti resta in testa il verso di una canzone e vai a letto la sera sperando di dimenticarlo e ti risvegli che è ancora lì, ma quel giorno resta in testa la frase di Ada: poi sei uscito con Ugo, hai fatto rumore e poi bon, ho sentito solo te. La sera vado a letto e spero che il sonno me la faccia dimenticare. Anche quella notte mi sveglio per la mia solita controllata. E la frase di Ada è ancora lì, scolpita nella testa. Quella sera faccio due passi, sento Ugo che si avvicina, pacca sulla schiena e sono davanti alla porta finestra. Metto la mano sulla maniglia e niente, la frase di Ada continua a risuonarmi in testa. E poi sento un rumore da fuori. Forse lo sento. Come quello che faceva lei stamattina toccando la tazza con le unghie. Non lo so, non sono più sicuro. Forse hanno ragione loro, forse è vero. Forse è vero che non ero io a fare rumore ieri sera. Se ci fosse davvero un lupo. Questa è zona di lupi. O un orso. Stavolta rispetto la sequenza, tiro indietro la mano e me ne torno a letto. Non so se vi è capitata questa cosa che è capitata a me quest'estate con dei rumori e tu dici no, ma guardate che ero io, non era nessuno, e gli altri che dicono no, no, no, a te ti abbia sentito bene, ma c'erano anche degli altri rumori. Insomma, anche se non è stato così chiaro, o anche se non è stata come la storia di Carla che poi si è svelata essere nulla, cioè essere un tizio che semplicemente ha alzato un po' il gomito. Non so se vi è capitata, ma è una sensazione molto particolare quella di trovarsi in un luogo buio, di notte, magari da soli, e di avere la percezione che c'è qualcosa. qualcosa o c'è qualcuno di strano, insomma qualcosa, qualcuno che non dovrebbe essere quantomeno lì. È una situazione che probabilmente sa raccontarci meglio Carla. Pronto Carla? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene, ti ringrazio. Dove ti trovi? Al lavoro, immagino. Sì, io adesso sono a Torino per lavoro. E quindi sei nascosto in un bagno, sei messo in un più sottoscala? O meno, sì, più o meno. Ma ci puoi dire anche che cosa fai a Torino per lavoro? Non nel dettaglio, se non puoi. No, beh, non c'è niente di segreto. Sono a Torino per un convegno, io lavoro all'università, quindi settembre è il momento della migrazione per gli accademici, per cui sono qui a seguire e a gestire un convegno. In che senso è il momento della migrazione? Perché a settembre ci sono molti convegni, perché è il momento prima che ricomincino le lezioni, quindi è il momento buono per scambiarsi pareri con gli altri colleghi prima di rimanere bloccati alla scrivania dall'attività didattica che fa parte del lavoro. Ah, ok, semplicemente insomma se ne approfitta per imparare, per apprendere, per scambiarsi cose, idee, opinioni. Tu mi ricordi che cosa insegni esattamente, qual è il tuo corso? Io sono un chimico industriale come formazione, poi mi occupo di metallurgia, quindi insegno metallurgia e scienza dei materiali sia ai chimici industriali che agli ingegneri. Mi dici il titolo del convegno, per piacere? Questo si chiama World Tribology Conference, è un convegno mondiale di tribologia. Tribologia è quella che studia l'attrito e l'usura dei materiali. Ah, che ci serve, che so io, dimmi un'azienda... Per risparmiare energia in tutti i sistemi di trasporto, quindi per certo. Consumare meno combustibile sfruttando più efficacemente l'energia che si mette nei veicoli, oppure per far funzionare meglio le protesi o ma per... ad esempio guarda, è che mi è venuta un'idea, voglio vedere se ho ragione. Vai. È quella cosa che usano le auto ibride che quando freni recuperi energia? Non esattamente, diciamo che scegli meglio la progettazione e anche il tipo di materiali che accoppi in modo da ridurre l'attrito. Perfetto, adesso... Quindi è più prevenzione che... Carla, ti ringrazio per la precisione, adesso torniamo in quella stanza, in quella stanza quella notte, sì. Che me la ricostruisci velocemente, tu sei nella tua stanzetta, il giorno dopo hai un altro convegno, giusto? Ho una lezione. Ero lì per tenere un corso e... stavo dormendo, da non tanto mi ero addormentata, per cui ero lì da sola, era molto silenzioso, stava nevicando forte fuori. Siamo ad Amsterdam, ricordiamo. Siamo ad Amsterdam, in una stanza della foresteria dell'università, fra l'altro molto bella, sul tetto dell'edificio. Quindi... Insomma, tutto molto romantico, direi. Molto, quasi. Molto, assolutamente, era un peccato essere da soli. Esatto. E infatti qualcuno si materializza. Esatto, si è materializzato qualcuno che ha iniziato a colpire il tetto e poi ho visto questa sagoma stagliarsi contro il vetro che era velato dalla neve, perché era un tetto inclinato, quindi si era accumulato un velo di neve e non si capiva cosa questa persona stesse dicendo, facendo, però faceva molto rumore e urlava. Ah, scusa, tu eri su un sottotetto, quindi a che piano era più o meno? Era al terzo piano, se ricordo bene. E fino a che irrompe quello della sicurezza, che però irrompe in maniera anche abbastanza violenta, no? Insomma, sì, probabilmente erano... ti ha spaventato di più il bussare alla porta che non il rumore sul tetto. Beh, diciamo che il rumore sul tetto aveva già preparato il clima. Poi quando ho sentito questi colpi alla porta, stupidamente quando uno è mezzo addormentato non è che riesce a pensare molto lucidamente, non riuscivo a capire se qualcuno stava per entrare in maniera, diciamo così, non autorizzata nella porta. E poi ho capito subito, appena ho visto la divisa, ho visto il logo, ho capito. Chiaro. E a quel punto si è risolto tutto, no? Questo tizio sì. È riuscito a entrare dall'abbaino, giusto? Sì, okay. Sì, proprio da quella stessa finestra velata di neve cui lo vedevo muoversi dentro e fuori. L'hai più rivisto questo ragazzone americano che è entrato di notte dall'abbaino della tua strada? No, non l'ho più rivisto. Dopo essere rotolato dentro dall'abbaino mi ha scritto per chiedere scusa, poi ho parlato con il suo insegnante perché era lì insieme, era una classe delle scuole superiori che era in gita ad Amsterdam e ho parlato col suo insegnante un paio di volte e più che altro eravamo tutti preoccupati che non si fosse fatto male, perché oggettivamente poteva farsi molto male dal terzo piano con quelle condizioni meteo. Carla, invece scusami, una che fa il tuo mestiere, no? Che è una studiosa sì. di cose così concrete, diciamo, ok? Uh-huh. Sì. Quanto spazio lascia all'irrazionale quando nella notte sente dei rumori strani? Oh, cioè, aiuta il fatto di essere no. uno specialista oppure vale comunque sempre tutto, oddio... No, in quel caso lì proprio è passato direttamente da un circuito diverso da quello razionale, perché è stato un risveglio molto particolare, quindi no, non mi ha aiutato a nulla tutta Carla, la formazione. E poi ti saluto, qual è il futuro non so, dell'attrito. Beh, ci sono tanti modi per modificare le superfici, anche copiando dalla natura. Si può copiare la forma di superfici particolari che ci sono in natura e che si comportano molto bene, la pelle dello squalo, le ali delle farfalle. Beh, che meraviglia, ed è subito Mr. Kilowatt. Carla, esatto. Ti ringrazio tantissimo per la telefonata e la storia, in bocca al lupo e buon convegno. Grazie a voi. Ciao, grazie. Merci, grazie ciao. Mille. Voi siete qui. È in una mensa, secondo me, Carla, nella foto che ci ha mandato, che trovate sul sito di Radio 24, alla nostra pagina, Voi siete qui. È in una mensa perché si vede alle spalle una vetrata di quelle che di solito caratterizzano le mense, o perlomeno le mense quelle un po' moderne, ci sono mense che sono lì sottoscala. Ha il sorriso di quelli che dicono, vabbè dai, fammi sta foto. E poi quando vede la foto dice, odio le foto, però facciamo che questa è buona. E poi la spacciano per anni come l'unica foto buona che hanno. Appunto, è sorridente, ha degli occhiali appoggiati sul naso, i capelli brizzolati. E Carla, devo dire, non sembra essere una che bada particolarmente all'abbigliamento o alla pettinatura. E anche per questo mi piace. Il mio terrore si sgonfia come un palloncino. Apriamo la finestra, spostiamo la scrivania e un ragazzone biondo in jeans e camicia di cotone fradicia frana sul pavimento, trascinandosi dietro a valanga tutta la neve del tetto. È tutta un'altra cosa, è subito sceneggiato radiofonico, il grande sceneggiato radiofonico Rai. Appena Alessandra De Luca si mette a riprendere dei pezzi della storia che abbiamo raccontato, ringrazio ancora lei e la sua splendida voce. Mi chiedono se siamo in diretta. Sì, siamo in diretta, sono le 16:36. Oggi a Milano c'è una bella giornata settembrina, di quelle che di giorno fa caldino, ma la mattina e la sera tira già un po' di bisa, come diceva il mio amico torinese. Tira un po' di bisa, credo che sia proprio solo torinese bisa, forse Margherita, alle nostre parti bisa non esiste, nel Novarese, ma il Novarese è Piemonte finto. Secondo me a Cuneo anche un po' di bisa, che devo dire, anche se non la capisci, però il senso te lo dà. Siamo in diretta, però potete ascoltare comunque questa trasmissione anche in podcast, ovviamente scaricandolo gratuitamente, ovviamente sul sito di Radio 24, oppure abbonandovi sempre gratuitamente. La parola chiave è gratuitamente oggi, su iTunes, insomma vi abbonate e quella automaticamente vi scarica. Cercate Voi siete qui. Le ultime 5 puntate, non venite a chiedermi ma dove sono quelle dell'anno scorso, c'è un archivio per quelle, ma quelle potete ascoltarle online, cioè dovete rimanere connessi, altrimenti per scaricare il podcast ve lo prendete e ve lo portate dove volete. A proposito di scaricamento e a proposito di gratuitamente, ci sono sempre disponibili non uno ma due ebook di questo programma che raccontano di fatto la stagione passata e la stagione prima. E già qualcuno mi ha chiesto, ma anche quest'anno ci sarà l'ebook? Siamo all'11 di settembre, è un po' presto, ma anche quest'anno ci sarà l'ebook, te lo promettiamo. E se non dovessimo mantenere questa promessa, ci vieni a prendere. Evidentemente c'è gente che fa fatica a non avere l'ebook di Voi siete qui, che è stato scaricato. Tiziano mi ha dato una cifra, 20 milioni? sto scherzando, Paolino, era una battuta. Era una battuta. Ah, perché ti sembravano pochi. Mi pareva fossero 15.000 scaricamenti di entrambi gli ebook di Voi siete qui. Sono sempre disponibili. Andate sul sito di Radio 24, alla nostra pagina Voi siete qui, e li trovate. Vi avevo promesso un racconto che quando l'ho riletto oggi mi è tornato in mente proprio l'odore che avevano i libri di antologia del liceo. Quando la professoressa Ferri ci diceva, per domani quei due racconti di Edgar Allan Poe, tutte e due. Non a memoria, quantomeno, sottolineate le parole chiave. Era fissata con le parole chiave, per questo che poi mi è rimasta questa fissazione. Immaginate di essere uno che non sta tanto bene, ok? Questo è il protagonista di questo racconto di Edgar Allan Poe. Nemmeno lui stava benissimo, e diciamo, faceva anche parecchio per non stare benissimo, però non sta tanto bene questo tizio. Immaginate di essere lui, di accudire un vecchio che vi ossessiona al punto che avete la sensazione di sentire il suo cuore battere in continuazione, finché a un certo punto lo fate fuori. Lo prendete e lo seppellite sotto le assi del pavimento di camera sua, ma questo rumore, boom boom, boom boom, boom boom, continuate a sentirlo anche quando arrivano due guardie della polizia. Gli ufficiali erano soddisfatti, i miei modi li avevano convinti. Mi sentivo proprio libero, a mio agio, senza imbarazzo. Si misero a sedere e discorsero di cose familiari, alle quali risposi franco ed allegro. Ma di lì a poco tempo sentii che diventavo pallido e desiderai che se ne andassero. Mi doleva la testa. Mi sembrava di sentirmi un tintinnio nelle orecchie. Ma quelli restavano sempre seduti e chiacchieravano sempre. Il tintinnio divenne ancora più distinto. Persistette e divenne ancora più distinto. Chiacchierai più abbondantemente per sbarazzarmi da quella sensazione, ma non mi lasciò. E prese un carattere del tutto deciso, tanto che alla fine mi accorsi che il rumore non era dentro le mie orecchie. Senza dubbio, diventai pallidissimo. Ma io chiacchieravo ancora più lesto e più forte, e il rumore aumentava sempre. E io che potevo fare? Era un rumore sordo, soffocato, frequente, assai simile a quello che farebbe un orologio involto nel cotone. Respirai laboriosamente. Gli ufficiali non sentivano ancora. E allora parlai più lesto, con più veemenza, ma il rumore cresceva, incessante. M'alzai. Disputai su delle piccolezze, in un diapason elevatissimo e con una violenta gesticolazione, ma il rumore cresceva sempre. Perché non se ne volevano andare? Scorsi il tavolato qua e là pesantemente, a grandi passi, come esasperato dalle osservazioni dei miei contraddittori. Ma il rumore cresceva, regolarmente. Che potevo fare? Schiumavo, balzavo e sacramentavo, agitavo la mia sedia facendola scricchiolare sul pavimento. Ma il rumore dominava sempre e cresceva indefinitamente. Diventava più forte, sempre più forte. E quegli uomini discorrevano sempre, scherzavano, sorridevano. Ma era mai possibile che non sentissero? No, certo che no. Sentivano, sospettavano, sapevano. Si facevano un gioco, un divertimento del mio terrore. Lo credetti e lo credo ancora. Ma tutto, tutto era più tollerabile di quella derisione. Non potevo più sopportare oltre quegli ipocriti sorrisi. Sentii che bisognava gridare o morire. E ancora e sempre, lo sentite? Ascoltate, ascoltate bene. Più forte, sempre più forte. Miserabili, gridai, non fingete più, confesso. Strappate quelle tavole, è là, è il battito del suo orribile cuore. Assorta nei miei pensieri nella notte, mi sento toccare lievemente sul braccio. Mi giro e nessuno. Paola. Ce n'è un altro simile, Tina. Ricordo la netta sensazione di qualcuno che si siede accanto a me sul letto. Qualcuno che accendendo la luce non vedo perché sono sola nella stanza. Mi è successo più di una volta. Ed eccola qua. E poi ringrazio qualcuno che, a proposito di quello che lui definisce il mio vizietto, quello di chiamarmi nella notte in questo modo. Paolino, toglimi la base. Matteo. Matteo. Ecco, a proposito di questo mio vizietto, mi scrive: il tuo vizietto sembra una roba esoterica. Immagini che sia qualcuno o qualcosa a chiamarti. E fino a qui ti ringrazio. Forse sei curioso o affascinato dall'esoterismo o dalla morte. Benissimo! Ed è con questo messaggio che saluto tutti quelli che hanno reso possibile questo programma, oltre a chi l'ha ascoltato: Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni. Ringrazio soprattutto Carla, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Andrea, vengo da Amelia, la storia di domani è la mia e parla di un canottino. Questa è la mia storia ed io sono qui.